del perdono. Mandorle, succubi a rigore dell'inverno. Saltano le parole rotte dal respiro. Cosa mi fai? Io non lo so, perché ti amo. Io ti seguo pure, decidi tu dov'è che andiamo. E tu ridi e non chiedi mai, tanto tutto quel che vuoi lo tieni. Ma cosa darei per dirti io come mi chiamo? Tu continua pure, se così vuoi. Stringono le mie mani i lembi del cappotto. Statiche quasi congelate dal tuo sguardo. Cercano nel tuo volto come il suo cammino. Tu vai avanti, non ti volti mai, io guardo il cielo. Sì, ti seguo sempre, ma a volte anch'io se mi allontano. E tu prendi tutto e non sai che il disturbo prima o poi lo paghi. Ma cosa darei per dirti che mi stai perdendo? Tu continua pure, se così vuoi.